Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati con l'appuntamento con la grande attualità internazionale, con i grandi temi che accadono e ci coinvolgono anche fuori dai confini italiani. Con me in redazione c'è Mire Lucchetti, in regia c'è Gianmarco Ferronato. Le coordinate subito: 349-238-6666, gli sms, Twitter Nessun Luogo 24, la pagina Facebook e invece Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Nessun Luogo Lontano è un programma che spesso, a volte, va sul campo, va sul terreno, altre volte dà la voce a chi è sul campo, e quest'oggi partiamo da un campo un po' diverso dal solito, almeno per noi. Para Gareth Bale è molto difficile di parlare perché non è un giocatore del Real Madrid in questo momento, e vamo a vedere che passa. The rumors are that anything is imminent is not true. Obviously we have allowed ourselves conversations with Real Madrid confirmed by their coach, I think wrongly. Tranquilli, non è tutti convocati, non sto rubando il lavoro a Carlo Genta, a Giovanni Capuano. Perché parliamo di calcio e di Gareth Bale, questa fantastica ala sinistra del Tottenham? Avete sentito la voce di Carlo Ancelotti e quella di Andreas Villas-Boas, perché quella trattativa lì plurimilionaria avrebbe attirato l'attenzione niente meno che uno dei leader di Al-Qaeda in Yemen, che avrebbe postato una feroce critica su un blog al calciomercato, quel calciomercato che in queste settimane ha proprio per oggetto questa ala sinistra del Tottenham. Perché tutto questo? Perché Tottenham è la squadra del quartiere ebraico londinese, perché i soldi che stanno girando sono tantissimi, e il leader yemenita avrebbe scritto, virgolette, mercanti senza scrupoli, ebrei che saranno puniti per la loro avidità. Allora, se non ci fosse il brand di Al-Qaeda di mezzo, verrebbe quasi da sorridere, perché agosto spesso si è accorto di notizie, ma insomma vuoi dire che anche Al-Qaeda si interessa al calcio mercato? Ma vedremo, di questo parleremo con il nostro ospite. Ma poi c'è un allarme ben più generale che sta preoccupando le diplomazie e le intelligence di mezzo mondo. The new terror threat from Al-Qaeda that is prompting the U.S. to take major security precautions overseas. More than a dozen American embassies and consulates are being ordered to close this Sunday. The intelligence does not mention a specific location, so all embassies and consulates that would normally be open on Sunday have been ordered to close. US officials say they intercepted electronic communications. Allora, come state sentendo, come avete sentito anche dal GR, le autorità di Washington hanno annunciato un prolungamento della chiusura di alcune ambasciate in alcuni specifici paesi del Nord Africa e del Medio Oriente fino al 10 agosto. Nella lista vi sono 15 rappresentanze diplomatiche che sono chiuse già da alcuni giorni. Vi cito alcune di queste sedi: Amman in Giordania, il Cairo, Riyadh, Doha, Dubai, Kuwait City, Tripoli, Sanaa, Djibouti, Khartoum, c'è anche Kigali in Ruanda. Insomma, fino a sabato prossimo massima allerta da parte della diplomazia americana. Tutto questo perché l'intelligence americana avrebbe intercettato, e ne ha dato notizia quest'oggi, ieri sera, la stampa americana, avrebbe intercettato addirittura una conversazione telefonica fra il numero uno di Al-Qaeda al-Zawahiri e il suo omologo nella penisola yemenita. Allora, cerchiamo di fare il punto: A, per capire quanto è reale questa minaccia; B, quali implicazioni politiche ha. Intanto do il mio buongiorno a Lorenzo Vidino, al Politecnico di Zurigo, analista esperto di terrorismo. Lorenzo Vidino, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie mille, buongiorno a tutti. Allora Lorenzo, partiamo col sorriso, se è possibile. Questa vicenda in cui anche Al-Qaeda prende posizione sul calciomercato e su Gareth Bale, come la leggi? Che basi di verosimiglianza o di verità può avere? È difficile dire, chiaramente va confermata. È chiaro che vediamo quotidianamente sui vari forum jihadisti gente che manda dei proclami molto particolari, che si finge di essere determinati personaggi di spicco del mondo jihadista. Tuttavia, se confermato, diciamo che fa parte di una certa narrativa che la leadership di Al-Qaeda da anni porta avanti, che vede l'Occidente come un mondo corrotto, in cui il capitalismo sfrenato porta a situazioni moralmente criticabili, come il passaggio di un giocatore di calcio per delle cifre onestamente vergognose. Il fatto che poi il Tottenham sia, come dicevate prima, la squadra delle zone nord di Londra, maggioranza ebraica, ma tradizionalmente la squadra degli ebrei londinesi con una proprietà ebraica, chiaramente aggiunge, diciamo, munizioni alla narrativa di Al-Qaeda. Chiarissimo, Lorenzo, quindi già, come dire, se verificata, prenderebbe intanto uno squarcio su anche un'apertura, se vogliamo, no? Di questi leader qaedisti che ovviamente osservano con attenzione quello che accade nel mondo occidentale e però magari entrano e si addentrano in universi che noi non pensavamo potessero essere di loro interesse. Allora, abbiamo citato Al-Qaeda nel Yemen, che se vogliamo è negli ultimi giorni un soggetto nuovo, non per chi come te studia la materia da tempo, ma magari per i nostri ascoltatori. Andiamo allora in Yemen a scoprire chi comanda, come, dove Al-Qaeda. Al-Qaeda nella penisola arabica è ritenuta oggi il ramo più attivo della rete jihadista internazionale. Nota con l'acronimo ACPA, l'organizzazione opera soprattutto nello Yemen e in Arabia Saudita e nasce ufficialmente nel 2009 sotto la guida di Nasser al-Waishi, alias Abu Basir, ex segretario di Osama Bin Laden. In soli 4 anni, il gruppo è diventato una minaccia globale, conquistando il record di attentati condotti lontano dalle proprie aree di sorveglianza. Ad ACPA vengono attribuiti, tra gli altri, il massacro di Kobar nel 2004, gli attacchi di Doha in Qatar nel marzo 2005 e il tentato omicidio del principe saudita Mohammed bin Nayef. L'organizzazione ha inoltre rivendicato l'invio di alcuni pacchi bomba negli Stati Uniti, lo schianto di un aereo cargo di UPS a Dubai nel 2010 e l'attentato con cintura esplosiva durante la prova generale di una sfilata per la festa dell'unità yemenita nel maggio del 2012. Quest'ultimo è considerato l'attacco terroristico più violento e sanguinoso nella storia del paese. A luglio, ACPA ha annunciato la morte del suo numero 2, Saed al-Shiri, freddato in un attacco condotto da droni statunitensi. Allora, questo in breve è il tratteggio di questo nuovo, tra virgolette, soggetto nella grande galassia di Al-Qaeda che si sta imponendo all'attenzione dei media. Lorenzo Vidino, la prima domanda è un po' maligna, perché a pensare male, insomma, probabilmente si fa bene. Ma ti pare che al-Zawahiri e il suo omologo nella penisola arabica si parlano al telefono di un attentato? Domanda maligna ma legittima, onestamente questa è parsa a molti una cosa particolare. Si sa che la leadership di Al-Qaeda, Bin Laden prima della sua morte e adesso Zawahiri e i pochi fedeli attorno sono molto attenti al non usare email, telefono, insomma una telefonata in cui così apertamente si discute di attacchi e di date pare onestamente particolare, generalmente usano intermediari, è chiaramente un qualcosa che lascia un punto di domanda. E allora, a essere ancora più maligni, perché in questo momento, perché in questa precisa tempistica, perché l'amministrazione Obama sta fronteggiando, è bene ricordarlo, quel grande scandalo che ha a che fare con l'agenzia di sicurezza, che ha a che fare con la fuga di dati, con quei due personaggi che hanno messo in crisi tutto il sistema, dal lato Manning, dall'altro Snowden. Ebbene, allora, voler pensare molto molto male, viene da dire, beh, fate uscire questo allarme relativo ad Al-Qaeda proprio per ribadire attenzione alla fuga di notizie, attenzione, vedete quanto è importante il lavoro che l'intelligence fa, vedete quanto è importante andare a tracciare tutti i dati possibili immaginabili in tutto il globo. Sono troppo cattivo oppure, Lorenzo, ci sono, come dire, dei presupposti per pensarla in questo modo? No, è chiaro che sono dei dubbi legittimi. Adesso probabilmente nelle prossime settimane avremo più dettagli su quello che sta succedendo in questi giorni. Come spesso accade, abbiamo all'inizio degli allarmi più o meno giustificati e poi i dettagli vengono pubblicati, resi noti. in futuro, quindi lo sapremo presto. È chiaro che la tempistica di questo potrebbe essere vista in maniera sospetta, è legittimo. Quello che si può immaginare è che magari qualcosa sussista, esistono dei motivi legittimi. Sappiamo che comunque Al-Qaeda nella penisola arabica è comunque da anni, come diceva la vostra ottima scheda, coinvolta in attentati contro l'Occidente, che ultimamente la leadership di Al-Qaeda centrale ha in sostanza dato via libera al ramo yemenita per nuovi attacchi. Queste sono cose risapute, quindi magari una base di realtà c'è. Io non oso immaginare che sia totalmente una storia fabbricata dagli Stati Uniti. Sì. È chiaro che due fattori vanno però presi in considerazione per insomma avere un pochino una prospettiva più ampia. La prima è, come dicevi giustamente, la tempistica legata allo scandalo del tutore, dai vari scandali relativi all'NSA, al monitoring che viene fatto degli email, delle varie conversazioni, e la seconda è comunque un'altra motivazione politica che di sicuro è nella mente dell'amministrazione Obama, che è quello che è successo un anno fa con l'attacco al consolato americano a Bengasi, la morte dell'ambasciatore. L'aver sottovalutato quella minaccia è chiaramente un errore che politicamente è costato molto all'amministrazione Obama, un errore che non vorranno commettere. Quindi se esiste una qualche traccia di qualche attentato, è chiaro che pubblicamente parlarne e anche chiudere ambasciate, quindi un atto così drammatico, può comunque avere una valenza di, in un certo senso, prevenire critiche future in caso qualcosa avvenga. Allora, questo è il punto, è molto lucido, di Lorenzo Vedino. In buona sostanza, forse qualcosa di vero c'è, anzi qualcosa di vero ci sarà, però magari l'amministrazione tende a ingigantire. Da un lato c'è appunto questo portare avanti la logica delle intercettazioni a tutela dell'interesse nazionale, dall'altro, come giustamente ricordava Vidino, un anno fa a Bengasi l'amministrazione ha vacillato, perché l'attentato, quello lo ricordiamo tutti, e quindi aver sottovalutato quella minaccia insomma fa allertare parecchio l'intelligence e la diplomazia. Subito dopo la borsa cercheremo di capire gli ultimi eventi e questo allarme quanto ci confortano nel disegnare l'organigramma di Al-Qaeda. Al-Qaeda è un'organizzazione enorme che ha ramificazioni in tanti paesi nel mondo, è un brand molto forte. Forse ragionarne in termini di brand e addirittura di franchising aiuta proprio a come dire, toccare le corde giuste per capire meglio il fenomeno. Nessun luogo è lontano. La minaccia di Al-Qaeda, quella conversazione intercettata telefonicamente dagli agenti statunitensi e quindi la chiusura di tante ambasciate, quell'allerta che si diffonde anche altre ambasciate, anche altre diplomazie occidentali, si sono in qualche modo accodate a questo grande allarme. Ci stiamo chiedendo quest'oggi, Nessun Luogo Lontano, quanto quell'allarme abbia anche una valenza politica, quanto possa essere ingigantito o strumentalizzato da un'amministrazione Obama che si è scottata dall'attentato di Bengasi di un anno fa, ma ricordiamolo, sullo sfondo c'è il Datagate e quindi la valenza delle informazioni, la valenza delle intercettazioni, di poter continuare a mettere lì il grande fratello, a buttare l'occhio su quello che viene detto in tutto il mondo. Siamo con Lorenzo Vidino, il Politecnico di Zurigo, lui che Al-Qaeda la conosce bene. Mi piace molto come Vidino racconta il brand Al-Qaeda in termini di franchising. Lorenzo. Ah, sì, questa è stata l'evoluzione di Al-Qaeda degli ultimi anni, dall'organizzazione che ha portato a termine l'operazione dell'11 settembre, che era un'organizzazione molto centralizzata, molto gerarchica, per un insieme di motivi, soprattutto la pressione americana e comunque di altri paesi, ha portato a una certa decentralizzazione, e quindi abbiamo un corpo centrale che è basato tra Afghanistan, ma più che altro Pakistan, con Bin Laden prima e adesso Ayman al-Zawahiri, dirige in un certo senso da un punto di vista più strategico, generalmente non da un punto di vista tattico delle operazioni, quindi l'allarme degli ultimi giorni potrebbe essere un po' un'eccezione, ma dà delle linee guida. E poi abbiamo franchise, abbiamo gruppi in varie parti del mondo legati ad Al-Qaeda, che utilizzano il brand Al-Qaeda, ma che agiscono indipendentemente e che hanno delle proprie priorità, delle proprie dinamiche, dei propri nemici, delle proprie alleanze. Chiaramente scelgono in loco la tattica da utilizzare per raggiungere meglio il loro obiettivo. C'è un'ideologia comune, c'è un modus operandi comune, ma esistono poi anche dissapori, esistono esistono litigi, esistono beghe anche abbastanza di piccolo cabotaggio tra le varie leadership. Al-Qaeda nella penisola araba è uno dei principali franchise, è probabilmente dei vari franchise quello più coinvolto in attacchi contro l'Occidente, almeno al momento, ma ne esistono altri che sono ugualmente, se non di più, forti. Pensiamo a quelli in Siria, che è ormai diventato sul campo il principale oppositore da un punto di vista militare del regime di Bashar al-Assad, o pensiamo ad Al-Qaeda in Iraq, che negli ultimi mese e mezzo ha insanguinato le strade dell'Iraq con una ferocia non inferiore a quella degli anni veramente più bui della post-occupazione americana. Ecco, l'ultima domanda, Lorenzo, riguarda invece un'altra delle succursali di Al-Qaeda, che è Al-Qaeda nel Maghreb islamico, molto attivo nella regione del Sahel, ma anche in Algeria e in Tunisia, e però insomma pare non interessarsi all'Europa. Loro sì che sarebbero vicini all'Europa, forse troppo impegnati nel loro traffico di droga, armi, migranti e quant'altro. È un po' un dilemma questo per molti esperti di terrorismo. Come mai Al-Qaeda nel Maghreb islamico, che ha operativi in Europa, in particolare in Francia, in Spagna, ma anche in Italia, ha spesso pubblicizzato messaggi di minaccia contro la Francia, contro la Spagna, in realtà non ha mai organizzato attacchi perlomeno in terra europea, ha organizzato attacchi contro interessi occidentali, europei, nelle loro zone, ma probabilmente perché è troppo occupato, come dicevi giustamente, in certo senso quel gioco del gatto e il topo che sta facendo con le varie autorità francesi e i vari governi nel Maghreb, non è occupato nei propri traffici di droga, non in realtà non ha portato la propria minaccia in territorio europeo. Grazie Lorenzo Vidino per la tua, come al solito, analisi molto lucida, molto chiara. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Questa è la fotografia della minaccia del più importante, più conosciuto brand terroristico al mondo, Al-Qaeda. L'avete sentito? Le succursali, il franchising, chi fa cosa, rapida e sintesi fotografia della minaccia, una minaccia che ha portato molte diplomazie occidentali sullo stato d'allerta, a chiudere le ambasciate. Cerchiamo di capire che riflessi ha questo allarme in Italia. Do il mio benvenuto a Nessuno che lontano a Carlo De Stefano, che è vicepresidente della Fondazione Intelligence Culture and Strategic Analysis, prefetto antiterrorismo, è stato anche sottosegretario all'interno. De Stefano, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a voi. Prefetto, la prima domanda, in massima sintesi, che riflessi può avere un allarme come questo in Italia, cioè dentro casa nostra? Beh, bisogna dire che tutta una serie di fattori, questa minaccia perdurante che oramai ci portiamo presso da tanti anni e comunque anche tutta una serie di attività operativa terroristica, soprattutto nei territori medio orientali, ci fanno ritenere che l'esposizione dell'Europa e quindi anche dell'Italia non è affievolita e quindi questo tipo di minaccia terroristica possiamo dire è sempre attuale. Bisogna però fare delle precisazioni, se le ritiene, cioè vorrei dire questo, che Al-Qaeda sta certamente attraversando un periodo di grossa difficoltà perché per vari motivi, innanzitutto perché l'ideologia di Al-Qaeda non è riuscita a fare presa sugli islamici, soprattutto in Europa, e non è riuscita poi ad acquisire un ruolo nelle primavere arabe che ci sono state recentemente in tanti paesi, anzi addirittura è stata tenuta fuori. Ora, questa situazione ha fatto sì che Al-Qaeda tentasse più volte di conferire una dimensione jihadista a questi conflitti terroristici e specifici di impronta nazionalista, no? Sì. Questi qui che abbiamo vissuto delle primavere arabe, magari anche attraverso la sovrapposizione del proprio nome e del proprio simbolo a quello delle formazioni locali. Ma tutte queste cose, tutte queste difficoltà crescenti hanno in un certo senso costretto Al-Qaeda a porre maggiore enfasi proprio sui paesi della penisola arabica, sui paesi dell'Africa orientale, del Nord Africa, e chiaramente evidenziando una maggiore capacità di pianificare operazioni terroristiche in queste zone, in questi paesi, con minimi rischi di repressione da parte delle forze di sicurezza locali. Sì, no, no, ecco, capisco. Con questo non è che voglio dire che i paesi occidentali sono assolutamente tranquilli, no. Però certamente sì, in questi paesi arabi, in questi paesi dove adesso insiste più fortemente la minaccia, dove le autorità americane hanno ritenuto di chiudere le ambasciate, certamente ci sono rischi di repressione da parte delle forze di polizia locali, certamente minori, ecco perché Al-Qaeda cerca appunto di approfittare di questa situazione. Lei, prefetto, diceva non ha tanta presa dal punto di vista ideologico, però insomma c'è qualche combattente occidentale europeo che si è unito alle fila di brigate legate ad Al-Qaeda in Siria, però su questo dovremmo dedicare più di una puntata di Nessun Luogo è lontano. Mi permette invece, vorrei avere una risposta sintetica se è possibile, quasi a slogan: l'Italia non è un target privilegiato, non lo è stato fino adesso, perché no, appunto non è un target privilegiato per Al-Qaeda, oppure i nostri servizi sono molto molto bravi a fare controintelligence? Beh, dire che i nostri servizi sono molto molto bravi a fare controintelligence forse è un po' troppo, però indubbiamente qualche cosa di vero c'è. Devo dire che l'Italia è assolutamente accomunata agli altri paesi europei, quindi i famosi gravissimi attentati che ci sono stati in Spagna nel 2004 e a Londra nel 2005, e come se avessero colpito anche l'Italia. Ma l'Italia, l'attentato più grave è quello avvenuto nell'ottobre del 2009 a una caserma dell'esercito a Milano, dove sì, poi fra le altre cose c'è stato insomma anche un episodio riconducibile a uno, massimo a due elementi, quindi insomma non si trattava di una strategia terroristica globale così come è avvenuto a Madrid e a Londra. Ora, quindi dice non siamo un target così appetibile, mi sembra di capire. Ma non è che non siamo un target così appetibile, siamo un target come gli altri paesi europei, siamo un target occidentale indubbiamente, non che non siamo appetibili, diciamo che comunque tutta una serie di operazioni compiute hanno fatto sì che Al-Qaeda ritenesse un po' più di perplessità nel pianificare delle azioni in Italia. Del resto insomma sappiamo che in Italia ci sono state tantissime operazioni, soprattutto dal punto di vista della prevenzione, perché sono stati individuati tanti sospetti potenziali terroristi, sono stati in un certo senso emarginati, ci sono state anche numerose espulsioni del ministro per motivi di ordine pubblico, quindi insomma c'è molta attenzione, c'è molta allerta. Prima di salutarla, lasciarla solo ora, prefetto, anche qui risposta sì o no: ha ragione il ministro Bonino a dire che le nostre ambasciate non corrono rischi? Beh, il ministro Bonino è un ministro di grandissima esperienza, molto navigato. È chiaro che queste chiusure decise dalle autorità americane sono chiusure più che altro simboliche, e il ministro Bonino ha ritenuto che non era il caso di esternare insomma queste attività, così come hanno fatto gli Stati Uniti d'America, non tanto perché non ci fosse un rischio specifico, quanto perché in un contesto generale si è ritenuto in questo momento che gli obiettivi italiani all'estero siano ben protetti e quindi insomma non dovrebbero correre alcun pericolo. Grazie prefetto Carlo De Stefano, buona giornata, buon lavoro, grazie per averci aiutato a comprendere meglio i risvolti italiani di questa crisi. Adesso il traffico, poi cambieremo decisamente pagina, andremo in Marocco dove c'è una storia di un re fragile, forse fragile, di una piazza forse sempre più forte, ma poi tutti i contorni di una spy story, ve la racconto subito dopo il traffico. Nessun luogo è lontano. We'll be right back. Il pericoloso passo falso del re, titola oggi Le Monde, vicenda che coinvolge Marocco e Spagna, una vicenda abbastanza complessa che, come spesso accade, non ha trovato ampio riscontro nei media italiani. Vi ricapitolo i fatti prima di analizzarli con la nostra ospite. Nei giorni scorsi il re spagnolo Juan Carlos aveva fatto visita a Mohammed VI. Eravamo a fine luglio. In quella visita, fra le altre cose, il sovrano spagnolo si era informato sullo stato di salute di alcuni detenuti spagnoli nelle carcere marocchine. Alcuni giorni dopo, il re Mohammed VI ha concesso la grazia a 48 detenuti spagnoli, molti dei quali in carcere per spaccio o traffico di droga. E fin qua, insomma, direte voi, niente di strano. Normali rapporti di diplomazia, di amicizia tra due paesi. Peccato che in mezzo a quei 48 detenuti vi fosse Daniel Galván, in carcere per pedofilia, condannato a 30 anni, accusato di aver stuprato parecchi bambini d'età anche molto molto giovane. Ma non è solo questo il motivo, diciamo, che ci spinge a parlare di questa storia. È mistero anche sull'identità reale di Galván. Di origini irachene, sarebbe un ex ufficiale dell'esercito che aveva collaborato con i servizi occidentali al tempo della caduta di Saddam Hussein. Poi cos'è successo? Che vi sono state le proteste di piazza. Perché i marocchini sono scesi in piazza dicendo: ma come, tu concedi la grazia a un pedofilo? Sia mai, Mohammed VI fa un passo indietro. Cosa sta accadendo? Karima Mual, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno. Allora, innanzitutto c'è un aspetto molto positivo di questa vicenda, perché per la prima volta la sponda sud e nord è molto vicina, perché le piazze spagnole e quelle marocchine si sono unite insieme per combattere una causa giusta, quella contro la pedofilia, e così è stato. Un passo indietro del re Mohammed VI, un passo indietro anche di Juan Carlos, e non è più che altro la fragilità, ma siamo sempre più vicini a una forza delle piazze, che decidono anche loro di cambiare le strategie anche geopolitiche, visto che stiamo parlando non di un professore ma di un 007, quindi una persona che sicuramente chiedeva dei privilegi, ecco. Sì. Ecco, fra l'altro tu accennavi il fatto che non è un professore, perché lui ufficialmente era in Marocco come professore in pensione. Fra l'altro, Karima, le agenzie battono adesso la notizia per cui Le Monde, che aveva in qualche modo una posizione piuttosto critica nei confronti appunto del re del Marocco, sarebbe sparito dalle edicole marocchine. A parte questo, io provocatoriamente, no, ho twittato, ho lanciato su Facebook, diciamo, il titolo di questa parte del programma: il re è fragile, la piazza è forte. Concordi da questo punto di vista? Noi dobbiamo ricordare anche che il Marocco è uno di quei paesi che ha evitato, tra virgolette, la primavera araba, proprio concedendo alla piazza delle cose, rafforzando il potere dell'esecutivo versus il sovrano, appunto. È il secondo caso in cui il re risponde immediatamente alla piazza e fa un passo indietro. Assolutamente. E cos'è? Intanto non siamo più nel tempo dei re, questo l'abbiamo capito, sì. E nemmeno nel tempo dei dittatori. Ma cos'è? Questo l'ho capito molto prima Mohammed VI, perché tutto il processo di democratizzazione e di riforme è stato avviato ancora prima delle primavere arabe, ed è stato, i risultati ci sono stati, perché tanto da sottolineare il fatto che il Marocco è stato l'unico paese dove realmente il vento delle primavere arabe lo ha solamente sfiorato. Ricordiamo che solamente nel 9 marzo del 2011, quando ci furono state queste manifestazioni del 20 febbraio, lui neanche due settimane dopo ha annunciato una riforma radicale, quindi il cambiamento della Costituzione. Quindi che Mohammed VI ha capito molto anticipatamente che non è il tempo dei re, e quindi sta facendo la sua strategia, è una strategia che accompagna il volere della piazza e i risultati si vedono, insomma, visto che comunque, insomma, quando ci sono le manifestazioni, intanto in Marocco ci sono sempre state e ci saranno sempre, e questo è un bene, perché significa che la popolazione, quando ci sono delle cose che non vanno, non ha paura. Ci sono molti altri aspetti che hanno bisogno di cambiamenti, e questo senz'altro, però ricordiamo che questo è un processo e la democrazia ha bisogno dei suoi tempi, ecco. E per chiudere il racconto dai contorni della spy story, Galván adesso fra l'altro è rinchiuso in un carcere spagnolo, quindi un po' tutti stanno tirando un sospiro di sollievo, perché questo strano personaggio, appunto, che molto ragionevolmente ha avuto quel passato da spia, da agente d'agente segreto, è nuovamente dietro le sbarre. E Karima Mual dirige Marocco Oggi, collabora con il Sole 24 Ore e segue ovviamente molto da vicino i fatti del Nord Africa, in particolare del Marocco, e diceva prima, insomma, la piazza si è sempre mossa in Marocco, c'è una tradizione, c'è una forza, c'è una vitalità. Ma quel movimento 20 febbraio, però, correggimi se sbaglio, è sempre rimasto sotto traccia, no? Adesso si è unito, fra l'altro, a queste proteste. Il movimento del 20 febbraio è rimasto sotto traccia perché non è unito, e quindi assolutamente, però tutte le sue cause sono servite, non è sotto traccia nel senso che non ha spazio nei giornali oppure nelle manifestazioni. Io credo che il movimento 20 febbraio faccia bene al paese per le lotte che fa, per le manifestazioni, per delle cause giuste, però non ha fatto la maggioranza, questo è il risultato. Le elezioni che hanno portato un partito islamista al potere sono una risposta. Il fatto che oggi, a 2 anni da queste elezioni, ci sia anche una crisi di governo, perché bisogna ricordarlo che anche il partito islamista in Marocco ha perso la sua maggioranza, questo ci sta a indicare che ci sono dei processi, che quest'area sud del Mediterraneo si sta comunque disegnando il proprio futuro e la propria storia. Ecco Karima, intanto al 349-238-6666, fra gli altri messaggi ce n'è uno che mi sembra interessante, Marina da Milano, che dice: il re del Marocco, grazie anche all'apporto della moglie Salma, cui è affidato il Ministero per gli Affari Esteri, ha mostrato forza, lei dice, non debolezza, facendo un passo indietro, che era un po' la domanda cuore di questa trasmissione, cioè tu quando assecondi la folla, la piazza, le istanze democratiche, alla fine nel lungo periodo sei forte, perché insomma il re Mohammed VI è ancora lì, altri governanti nel Nord Africa hanno fatto una fine molto molto diversa. Assolutamente sì, e questo è il punto, perché mentre dittatori sono caduti, noi abbiamo nel Nord Africa un re che è ancora in piedi e porta avanti le riforme, porta avanti le cause del paese e porta avanti anche una popolazione che, se ricordate bene, contro il movimento del 20 febbraio ci furono delle manifestazioni che dicevano come slogan: la nostra primavera araba è con re Mohammed VI. Quindi questo è significativo. E noi da questa parte troviamo un po' difficile, no? Anche capire come mai in Marocco c'è un re che ancora va avanti e i marocchini non lo vedono come marocchini, la maggior parte, visto che insomma, è ancora al potere. In realtà è perché le riforme che ha fatto, la sua storia ha dato dei buoni risultati e i marocchini li sono riconoscenti. È una forza politica importante. Grazie Karima Mual per la tua analisi. Insomma, lì sullo sfondo della primavera araba esiste, pare all'orizzonte, grazie, forse anche un'estate del Nord Africa. Vedremo se andrà avanti, seguiremo le vicende dei marocchini e marocchine e anche questa crisi semidiplomatica, vedremo come si evolverà. Siamo quasi in chiusura, non mi resta che ringraziare Mira Lucchetti che ha confezionato con me questa puntata, Gianmarco Ferronato che le ha dato musica e ritmo. Vi ricordo che potete sempre cercarci su Facebook, il profilo è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, e poi su Twitter Nessun Luogo 24. Intanto vi saluto, l'appuntamento è domani 13:15, quando nuovamente Nessun Luogo sarà lontano.